Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti ad una nuova puntata di Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti. Allora, qualcuno pensa che trasmettere il concetto, l'educazione della gestione del denaro ai bambini sia totalmente diseducativo. Altri invece cominciano a mettere da parte soldini per i piccoli di casa appena possono, elargiscono la paghetta non appena inizia a manifestarsi l'età della ragione e cominciano a parlare molto presto con i figli dell'importanza del corretto utilizzo dei soldi, soprattutto quando questi sono ancora di mamma e papà. In tutto questo, naturalmente, l'industria bancaria ed assicurativa, in un mondo in cui la scuola purtroppo ancora non fa la sua parte, l'industria bancaria ed assicurativa, vi dicevo, ha particolarmente cavalcato il business, proponendo dapprima prodotti per adulti, ma con l'obiettivo di accantonare risorse per il futuro di figli e nipoti. Basti pensare a tutta la gamma dei prodotti, per esempio, offerti dagli sportelli postali. Poi l'offerta commerciale ha cominciato anche ad ampliarsi, rivolgendosi direttamente ai minori con per esempio formule di conto corrente rivolte agli under 18. Insomma, un mondo in piena evoluzione, anche perché naturalmente non è che l'obiettivo della banca sia completamente filantropico, anzi è totalmente commerciale, si vuole fidelizzare la clientela a 360 gradi e quindi esaudire un po' tutte le necessità del nucleo familiare, cominciando ad avvicinare anche i bambini. Allora, oggi con Salva Danaio ritorniamo su questo argomento, perché ogni tanto andiamo, lo sapete bene, a monitorare i nuovi prodotti di questo mercato. Dopo averlo fatto, per esempio, lo scorso novembre, gli affezionati lo ricorderanno, perché avevamo parlato ad esempio del conto 44 gatti delle banche popolari, della polizza Primo Domani del gruppo Generali. Oggi abbiamo altre iniziative, abbiamo quella per esempio del gruppo Ubibanca, il Clebbino, l'esperienza del gruppo Unicredit con il pacchetto Genius, che per la verità, poi lo sentiremo, accompagna i bambini da 0 fino a 30 anni, per cui un percorso piuttosto articolato. Ma soprattutto, al di là di raccontarvi quello che fanno le banche in questo settore, sentiremo anche i consigli di un consulente del credito su come insegnare il denaro ai bambini, non solo dal punto di vista, diciamo, dell'esperienza professionale, ma anche dal punto di vista dell'esperienza personale, perché l'interlocutore che vi presenterò più tardi è anche papà di 3 bambini, per cui ci racconterà direttamente cosa fa con i suoi piccoli a casa. 800 24 00 24, come sempre mi piacerebbe molto ascoltare anche le vostre esperienze, cosa fate con i vostri bambini, al di là del fatto che magari come nonni, oppure per quello che riguarda per esempio il mio caso come zia, mi piace pensare al miglior futuro possibile per il mio nipotino. Io sto già immaginando come poterlo aiutare nel futuro, per farlo studiare soprattutto all'estero. Questo è un mio pallino. Voi invece a che cosa state pensando per i vostri bambini, e soprattutto in che modalità avete scelto di accantonare le risorse per il loro futuro? Allora, vi dicevo, raccontatecelo all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Vi faremo chiacchierare con Ivan Gotti, responsabile comunicazione e marketing di Ubibanca, responsabile del progetto Clebino, appunto, per questo gruppo bancario. Gotti, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Clubino o Clebino? Ma diciamo Clebino. Clebino, quindi il club del bambino, Clubino, in sostanza. Barbara Tamburini, invece, responsabile clientela giovane del gruppo Unicredit. Tamburini, buongiorno. Buongiorno a tutti. E ben trovata. E poi sentiremo, ci colleghiamo con lui più tardi, Giampaolo Luzzi, che abbiamo sentito più volte nelle nostre trasmissioni, è autore del libro Siamo tutti debitori, come proteggere la nostra famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni. Luzzi in realtà come lavoro fa il recuperatore del credito, ha un'azienda appunto che si occupa di questo, ma scrive anche di tante altre cose, anche di educazione finanziaria all'interno della famiglia. Prima di cominciare sul nostro argomento, andiamo invece a vedere la borsa come si sta comportando oggi. Non molto bene. Bene, dopo la giornata chiusa negativamente ieri, oggi l'Europa era partita in maniera un po' contrastata, un po' conflittuale, voleva rimbalzare, invece non ce l'ha fatta, e abbiamo dei cali che sono di circa 0,5 punto percentuale, abbondante per la verità. Parigi e Francoforte, Londra sta perdendo lo 0,76%, Milano lo 0,73%. Per la verità ci sono state anche delle trimestrali buone, come per esempio ieri sera negli Stati Uniti, quella di Visa, quindi il settore delle carte di credito, che magari toccheremo anche stamattina, quella di Cisco System, ma il mercato preferisce non guardare le buone trimestrali, probabilmente guarda ad altro, stamattina non si capisce bene a che cosa. Anche Deutsche Bank in Germania ha avuto una trimestrale decisamente buona, utili nel 2009 arrivati a 5 miliardi di euro contro una perdita di quasi 4 miliardi dell'anno precedente, e invece a quanto pare il mercato non guarda più di tanto anche questa buona indicazione appunto di questa trimestrale. Piazza Affari, vediamo un po' stamattina gli investitori su quali titoli puntano. Tornano ad accendersi i riflettori su Telecom, titolo in rialzo di 1,5 punti, Pirelli in rialzo di 1 punto, Enel più 0,38, Saipem più 0,36, Snam Rete Gas più 0,29%. I cali invece sono molto forti, intanto su Prysmian che perde 3,5 punti, è arrivata a perderne quasi 5. Nelle sale operative si spiega che in sostanza le quotazioni risentono del collocamento di quasi 18 milioni di titoli da parte di un azionista di Bank of America. Abbiamo una certa debolezza anche su Generali, meno 2 CIR, meno 1,86, Unicredit, meno 1,79, abbiamo un ribasso di 1,5 punti su Italcementi, Unipol, sulla Banca Popolare di Milano, quindi rivedo anche un po' di vendite sul comparto bancario ed assicurativo. Intanto il dollaro ha invertito il trend negativo che c'era stato ieri, perché l'euro aveva recuperato quota 1,40, oggi invece abbiamo di nuovo 1,38,42 come rapporto di cambio in questo momento. Abbiamo anche la trimestrale di Vodafone stamattina, ma evidentemente nessuna trimestrale piace al mercato perché il quadro rimane negativo. Oggi riunione della Banca Centrale Europea sui tassi, dovrebbero rimanere invariati all'1% in Europa, lo sapremo alle 13:45. Lasciamo la borsa, andiamo al risparmio per i bambini. Mettere al mondo dei bambini oggi è considerata quasi una scelta coraggiosa, visto l'impegno economico che comporta. Ma quando i figli crescono, le spese non finiscono. Anzi, con l'aumentare dell'età, cambiano le esigenze e aumentano quindi le richieste. Investire per conto dei propri figli è meno faticoso di quanto si possa pensare e soprattutto ha un grande vantaggio: il tempo. Programmare un investimento per una durata di 10 o 20 anni consente infatti di ottenere rendimenti piuttosto elevati. Il ventaglio di offerte da parte di banche e compagnie assicurative è sempre più ampio, con prodotti e soluzioni costruiti ad hoc per i più piccoli. Uno degli strumenti più comuni è il libretto di risparmio, che a differenza di un conto corrente ha bassi costi di gestione e dà la possibilità di fare versamenti e prelievi presso la filiale. E non ha nessun vincolo di età. Bastano pochi euro per aprire un libretto di risparmio. Sono libretti al portatore, che riportano il nome del bambino. Libretti, ma non solo. Un altro strumento utile sono le polizze vita, che consentono di costruire un piccolo capitale, anno dopo anno, con sistemi di protezione che garantiscono comunque il raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta sostanzialmente di un contratto bilaterale. Da un lato c'è il contraente, dall'altro il beneficiario, in questo caso il figlio, che alla scadenza avrà diritto al suo capitale o a una rendita temporanea per gli anni degli studi. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Io vedo già un bel gruppo di telefonate di ascoltatori pronti ad intervenire, che si sono prenotati al nostro centralino. Volevo cominciare subito con Ivan Gotti del gruppo Obibank, perché mi ha incuriosito particolarmente la loro iniziativa lanciata di recente, il Clubino, quindi il club del bambino. Giocate molto sul cartone animato e sul concetto del risparmiare giocando. Sicuramente una scelta originale, perché avete voluto utilizzare anche questo termine, visto che non è esattamente consigliabile giocare con i soldi, con il denaro, a meno che non si utilizzi il Monopoly, dottor Gotti. Beh, questo è molto diverso dal Monopoly. In effetti il nostro intento è molto più semplice ed educativo. Volevamo utilizzare per i bambini un linguaggio adatto alla loro età, ma far passare allo stesso tempo dei messaggi che fossero messaggi di valore, percepiti in maniera positiva innanzitutto dalle famiglie e certamente anche dai bambini. Quindi volevamo avvicinare il mondo della banca al mondo del risparmio, visto che sono perennemente bombardati dal mondo, dai media sul tema del consumo, e farlo in maniera anche ironica e divertente, con un linguaggio adatto a loro. Ecco, voi quello che avete fatto in realtà è prevedere proprio l'apertura di un libretto di risparmio, che è la modalità, diciamo, è la modalità sicuramente più diffusa nell'ambito bancario, no? Quando si parla di proposte per il mondo giovanile, però affidando anche questa apertura in qualche maniera ad un'interazione diretta con i giovani, esattamente in che cosa consiste l'iniziativa? Ma diciamo innanzitutto Clubino è il primo passo di UbiBanca verso il mondo dei ragazzi, dei giovani. UbiBanca si sta fortemente focalizzando su questi segmenti, il macro segmento diciamo che va da 0 a 30 anni, come diceva lei prima. Sì. Anche noi stiamo pensando di lavorare su questa ampia fascia di mercato e anche nei prossimi mesi si vedranno iniziative di Ubi in questo senso. Clubino è la prima, riguarda i ragazzini, i bambini da 0 a 12 anni e abbiamo voluto creare un'iniziativa di marketing attorno ad un prodotto molto semplice, perché abbiamo capito anche attraverso dei focus group con i nostri clienti che in realtà serviva un prodotto molto facile, molto trasparente e molto semplice per questo tipo di pubblico. C'era una richiesta molto forte da parte delle famiglie. Infatti anche lì poi volevo andare per capire esattamente quale tipo di esigenza anche familiare avete voluto intercettare, perché capita, leggevo appunto, ce lo diceva anche lei, è la nuova iniziativa dedicata ai bambini dai 0 ai 12 anni, soprattutto, come dire, nella fase 0 i bambini ricevono tanti regali dai nonni che non sono solamente il vestiario, il giocattolo, molto spesso si vuole cominciare subito ad accantonare, i nonni soprattutto sono molto sensibili su questo e allora si cercano quelle soluzioni per poter far subito l'accantonamento e non tenere questo denaro nel cassetto, quindi credo che l'esigenza sia questa, non so Gotti me lo conferma? Sì, è esattamente questa. Il Clubino, il libretto di risparmio, è il primo prodotto, a fianco a questo nasceranno altri prodotti nei prossimi tempi, in ambito assicurativo, in piani di accumulo soprattutto, più indirizzati però a rafforzare il sostegno agli studi, come lei citava prima giustamente, che è un'esigenza che avvertiamo fortissima. E infatti, tra l'altro ci sono già delle domande proprio su questo da parte dei nostri ascoltatori, mi piacerebbe poi che ci raccontasse anche Gotti che tipo di consulenza si fa allo sportello quando arriva una famiglia che non sa esattamente che cosa fare per cominciare ad accantonare risorse per il futuro dei bambini, quindi capire se si presenta banalmente il libretto di risparmio che avete in casa o se si fa anche una chiacchierata con queste persone. Però prima andrei ad Unicredit. Barbara Tamburini, ancora buongiorno, responsabile clientela giovane, ed era stata soprattutto la dottoressa Tamburini che mi aveva raccomandato di dire il nostro concetto di giovane è molto esteso, si parte da zero ma si arriva anche a 30 anni, perché poi non è detto che quando, come dire, l'età anagrafica cresce, anche la consapevolezza dell'uso del denaro vada di pari passo, no, con la crescita anagrafica, certo. Dottoressa Tamburini, sì. Certo, sì, di fatto è un percorso. Chiaramente nei primi anni di vita il percorso è prevalentemente fatto con la famiglia per ovvi motivi, poi al crescere dell'età dei figli, diventando poi giovani adulti, chiaramente la banca riesce ad avere un dialogo diretto con il giovane e quindi anche a fare delle proposte anche di spiegazione di che cos'è la banca direttamente al giovane, perché giustamente, come diceva lei, ci aspettiamo spesso che il giovane ventenne sappia esattamente cos'è uno strumento finanziario, cos'è un conto corrente, come si usano gli assegni, ma non lo dobbiamo dare per scontato. Infatti. Questo per una serie di motivi. Il primo è che sicuramente la materia è in parte tecnica e in parte anche specialistica, se vogliamo, ma anche perché storicamente, dicendo la verità, le banche non sono state particolarmente focalizzate nel cercare di farsi capire dalla clientela. Quindi c'è anche un tema di linguaggio sul quale invece negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare molto. Quindi presa di coscienza da parte del sistema bancario, che mi sembra sicuramente un passo in avanti da enfatizzare quanto più possiamo, e poi sicuramente questa mattina a noi piacerebbe anche dare un messaggio preciso alle famiglie, perché se è necessario che la banca faccia formazione anche sui prodotti finanziari ai ragazzi e anche su come si utilizza il conto corrente, perché poi magari il prodotto finanziario più sofisticato è un'altra cosa, ma sull'utilizzo addirittura del conto corrente quando un ragazzo va già all'università significa che magari in famiglia non si è fatto abbastanza, si tende molto a proteggere oggi fino all'età più avanzata possibile i nostri ragazzi, questo è naturalmente corretto, ma qualche volta dovremmo anche invece imparare loro, come dire, ad agire direttamente sul campo per capire anche qual è la funzionalità di questi strumenti e cosa serve loro anche per andare avanti nella loro vita personale e professionale. Allora, noi ci dobbiamo fermare per un attimo, abbiamo un piccolo stacco pubblicitario come sapete a quest'ora, saluto intanto però Pasquale da Roma e Marco da Como, li faccio intervenire tra pochissimo. Addirittura Pasquale ci vuole consigliare un prodotto che lui ha sottoscritto, che noi non conoscevamo ma ci sembra molto interessante. Marco invece pensa ad un'ottica temporale abbastanza lunga per il suo bambino. A Salvadanaio oggi abbiamo fatto proprio il salvadanaio, cioè esattamente come dire il porcellino, che magari come dire un'immagine che può anche attrarre un po' di più i bambini rispetto ad un'immagine di uno sportello bancario. E allora cerchiamo un po' di individuare quali possono essere le forme migliori, anzi non tanto le forme migliori quanto quali sono le forme presenti sul mercato verso le quali le famiglie possono orientare il risparmio, l'accantonamento dai primi anni di vita dei propri bambini, per ovviamente pensare a meditare già al loro futuro. Pensare a meditare, che brutto, pensare, meditare sul loro futuro, o una parola o l'altra, o un verbo o l'altro. Allora, noi stamattina stiamo intanto interagendo con Ivan Gotti, UbiBanca, responsabile di questo progetto Clubino di cui già parlato, e poi Barbara Tamburini, clientela giovane gruppo Unicredit. Non abbiamo ancora definito come funziona il pacchetto Genius Kids, ce lo faremo raccontare tra poco, però vorrei anche cominciare a sentire le esperienze dei nostri ascoltatori, cominciando con Pasquale da Roma, che credo debba anche andarsene a molta fretta stamattina. Che cos'è la tratta 1 e la tratta 2, Pasquale? Buongiorno. No, chiedo scusa, sono dei biglietti per... Sto scherzando, che stavamo sistemando i telefoni prima, l'ho sentita prima che aveva freddo. Allora, che cosa ha fatto per i suoi bambini? Se ne ha, naturalmente. Ma, guardi, sì, io ne ho due femminucce bellissime, tra l'altro una di 3 e una di 5 anni. Benissimo. Siccome il terzo non lo fa, Pasquale? Ci sto pensando. Bravo. Ma devo dire che è faticoso. Adesso lo immagino. Ci dica. Senta, io praticamente più che altro era una richiesta dei nonni che volevano mettere da parte qualcosina per i nipotini, e prima di fargli scegliere ho detto provo io a guardare sul mercato cosa trovo, quindi mi sono, grazie alla tecnologia di oggi, insomma internet mi ha dato ampia scelta, però alla fine ho deciso e optato per un prodotto della banca BHV. Mm-hmm. Che praticamente si chiama, se non vorrei ricordare male, si chiama Dispo Max, è un libretto di risparmio edilizio. Uh-huh. In sostanza, che credo che sul mercato italiano proprio non esista. No, anche perché questa è una banca tedesca, quella di cui parla lei. È una banca tedesca però che insomma si trova anche in Italia. Sì. No, peraltro, guardi, non se ne parla neanche molto, fanno dei mutui anche molto competitivi. Esatto, sì. Infatti questo libretto di risparmio edilizio è un libretto dove si accantonano delle piccole somme mensilmente o annualmente e danno la possibilità poi a coloro che l'hanno sottoscritto. Mm-hmm. Di prendere dei mutui, quindi a dei tassi veramente agevolati. Mm-hmm. Le faccio dei piccoli esempi, insomma, dopo circa 7-8 anni praticamente si ha la possibilità di acquistare un immobile con un tasso del 3,75 fisso. Che è qualcosa di grandioso, secondo Infatti. Me, perché poi il problema dei giovani oggi, come dicono anche i nostri politici, è proprio quello di uscire da casa e quindi di trovare una soluzione idonea. Infatti, guardi, il grande cavallo di battaglia del momento del ministro Brunetta. Peraltro, no, una cosa molto interessante questa, perché loro dicono prendiamo il cliente da quando è molto giovane, sensibilizziamo la famiglia su queste necessità e poi li aiutiamo noi a fare tutto il percorso, che mi sembra un discorso molto intelligente. Pasquale, la ringrazio per averci raccontato di questo, perché adesso andremo ad indagare, magari li portiamo anche a Salvadanaio. Vorrei salutare nel frattempo anche Giampaolo Luzzi, che ci ha raggiunto al telefono. Dottor Luzzi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, io naturalmente ho svelato le carte su quello che è il suo lavoro, che è quello del sostanzialmente recupero crediti, però ho anche raccontato che lei ha scritto dei libri sull'educazione finanziaria all'interno della famiglia. L'ultimo è Siamo tutti debitori, come proteggere la nostra famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni. E soprattutto ho anche detto che è papà di 3 figli, per cui sì, è impegnato ogni giorno in questa lotta che com'è? Impari, pari, come sta educando i suoi bambini alla gestione del denaro, Luzzi? Ma guardi, io sto cercando di applicare il detto cinese, cioè quello di insegnare a pescare piuttosto che regalare un pesce tutti i giorni a una persona, perché se gli si insegna a pescare lo spami per tutta la vita. E il concetto è questo, cercavo di riprodurlo nei libri, perché poi nel lavoro di tutti i giorni lo sto vedendo, molti dei guai in cui le persone si ritrovano annegati nei debiti derivano da una scarsa o assente educazione finanziaria, che credo che se venisse educata insieme, che ne so, alla grammatica, alla matematica, fin dalle scuole, insomma, io probabilmente solleverebbe tante persone dai problemi che sono costrette a vivere. Poi in questi tempi di crisi è un'esplosione assoluta, insomma. Mm-hmm. E quindi, insomma, imparo a pescare ma non a mangiare il pesce che può regalare mamma e papà, che papà e mamma possono pescare per lui. Peraltro il discorso anche intelligente a cui pensavo, che molto spesso magari i ragazzi a 18-20 anni possono anche ritrovarsi questa sorpresa di aver da parte un accantonamento che qualcun altro ha fatto per loro, magari con grandi sacrifici, come può essere stato il lavoro appunto di un genitore piuttosto che di un nonno, e non dico di lapidare il patrimonio rapidamente, perché non è che dico che siano tutti quanti così superficiali i ragazzi, anzi lo sono tutt'altro, però proprio non avere gli strumenti per poter capire che utilizzo corretto farne, giusto Luzzi? Il problema è questo, ecco perché è importante l'educazione. Poi naturalmente nell'assenza di un'educazione a scuola sarebbe indispensabile che almeno in famiglia ci sia. Io per esempio sono assolutamente un fautore della paghetta ai figli, a partire da una certa età, da quando hanno cominciato ad averci chiaramente l'età per ragionare, per rendersene conto. Ma una paghetta in cambio di che cosa? Gli si dice per esempio: guarda, la scuola è il tuo lavoro, pertanto ti devi guadagnare quello che ti do. E una paghetta destinata a che cosa? Ai beni di prima necessità, pensa alla famiglia, e con quei soldi il bambino che cosa è invitato a fare? La paghetta in cambio di nulla, nel senso che io nella paghetta ci destinerei un budget di spesa per il bambino, che il bambino si deve gestire per conto suo. In cambio di fare i lavori in casa piuttosto che andare bene a scuola, francamente sarebbe come se lo Stato ci desse un premio se non superiamo i limiti di velocità o se non andiamo nelle case degli altri a rubare. Cioè, il proprio dovere si fa gratis, io credo, no? Perché va fatto. E quello che è importante invece è essere incentivato. Allora si destina un budget di spesa per il bambino e se si inizia sugli 11 anni, che è poi più o meno l'età più evolutiva, no? Da che inizia, sarà un budget limitato, poi piano piano cresce e gli si fa comprare determinate cose, dalla merenda a che ne so, e poi vestiti piano piano. E lui deve stare dentro quel budget. Personalmente consiglio di stare in un budget un po' ristretto, perché è bene che non si dilapidino questi soldi e che si invece acquisca l'ingegno a guadagnare come? In maniera lecita, magari sotto Natale andare a fare le consegne dei pacchi natalizi e andare a fare la consegna dei fiori, andarsi a fare un po' di cameriere. Ma di questa paghetta lei li invita anche magari ad accantonare una piccola parte, quindi fare il risparmio nella maniera più assoluta. Questo è fondamentale, perché paga prima te stesso, che non l'ho inventato io, ma insomma c'è un libro un centinaio d'anni fa pubblicato in America che te lo insegna, è fondamentale, perché sono i rudimenti poi del risparmio. Cioè a dire di accantonare da parte, pagare prima se stesso significa prima pensare a se stesso e poi dopo di riaprire il denaro guadagnato per far contenta la banca, per far contenti i negozianti, il concessionario dell'auto e compagnia e quant'altro. Luzzi, adesso io la lascio perché so che è molto impegnato stamattina, quindi la ringrazio di essere stato qualche minuto con noi. Allora, questa è il suo comportamento con i suoi bambini, la paghetta naturalmente, insegniamo a pescare, poi però lei al futuro dei suoi tre figli naturalmente ha pensato, in che maniera? Non lo so, riflettendo soprattutto sul percorso di studi che faranno, sulla casa, come invece hanno fatto i nonni e i genitori dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima, pensando ai nipoti, qual è l'orientamento per il futuro? Ma è chiaramente nell'ottica di insegnargli a pescare e allo studio, che comunque si passa tutto da lì, e anche sicuramente la casa, ma magari vista in una maniera un po' più dinamica, di prendere la casa, averci la casa a tutti i costi. Ma per esempio l'abbiamo fatto insieme con la ragazza più grande, 17 anni, trovare una casa da ristrutturare e insieme gli ho fatto vedere come funziona e cosa succede quando una volta ristrutturata si rivende, si ha un surplus. Ecco, in quel senso la casa diventa un bel insegnamento, gli fa vedere che non la pietra a collo per il resto della vita, ma è una fonte di reddito, insomma. La ringrazio per la sua testimonianza, dottor Luzzi, buon lavoro, a presto. Grazie. Ogni tanto tutti, Gianpaolo Luzzi lo disturbiamo, soprattutto quando dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori come si rinegozia un debito con una banca, come si gestiscono, insomma, situazioni difficili. Allora, siccome c'è il tema anche del dopo, i libretti di risparmio, quindi magari polizze, piani di accantonamento, vorrei sentire, prima di ritornare a Gotti e Tamburini, vorrei sentire Marco da Como, perché era interessato soprattutto a questo aspetto. Marco, buongiorno. Marco? Buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, sì, adesso la sento benissimo. Marco? Senta, io sono ufficio. Sì, pronto. Facciamo un po' fatica. Senta, facciamo una cosa. Tento di rifarle la telefonata. Adesso chiedo a Gaia se può chiudere e ripristinare il collegamento telefonico. Quindi passo da Stefano, che invece è uno scettico totale, credo. No, perché Stefano? Tra l'altro lei non mi sembra poi esattamente una persona che non sa, non mi sembra un uomo che non è un uomo di mondo, un commercialista, quindi insomma... No, lei ha ragione, però per le esperienze passate, per le esperienze che ho visto fare dai clienti, e anche per le mie esperienze passate da bambino, sono tornato alle origini, per cui ho un bambino di 5 anni e una bambina di quasi un anno, e col bambino di 5 anni e mia moglie abbiamo pensato quale potesse essere il metodo per insegnare il risparmio, e allora abbiamo deciso di tornare al salvadanaio di terracotta, quello che col martello si rompe un giorno che il bambino decide, mio figlio deciderà di guardare cosa c'è dentro. Nel frattempo gli abbiamo detto, tutte le monete che trovi in giro per casa sono tue, quindi tu le prendi. E voi che cosa fate? Subdolamente disseminate la casa di monetine per mandarlo a caccia? esatto, però questo in fondo anche in auto ho cominciato a vedere le monetine magari per terra che cadono, quelle che io lascio per il parcheggio, e ho imparato ad andare nel salvadanaio, sappiamo che lui ha ben in mente questa cosa, sa che lui il giorno che vorrà il suo balocco preferito, piuttosto che il giorno che deciderà di fare quel capriccio per cui noi lo metteremo di fronte alla scelta, non abbiamo i soldi per comprarlo, meglio non vogliamo. E quindi state lì insomma che aspettate di metterlo alla prova, non aspettate altro. Nell'insegnargli il valore del denaro, quindi lui può scegliere quando trova quell'euro anche di comprarsi le caramelle, voglio dire, o di mettere nel salvadanaio, lo aspetteremo e diremo bene, a questo punto tu puoi decidere se ritieni di aver accantonato sufficienza, rompiamo il salvadanaio e vediamo cosa c'è dentro, ti compri quello che vuoi oppure no. Però Stefano, questo è come dire anche una sorta di gioco, chiamiamolo così, educativo naturalmente, che avete messo in campo a casa vostra con il vostro bambino, ma io non credo che lei non abbia del tutto non preso in considerazione l'ipotesi comunque di accantonare lei qualcosa per i suoi figli. No, assolutamente, è vero. Non metterà lei il suo denaro nel salvadanaio del suo bambino? No, in realtà io purtroppo per fortuna ritengo che il mattone in ogni caso sia un bene rifugio che negli anni si rivaluta nonostante le bolle passate. Molto recentemente abbiamo deciso di comprare un immobile a puri fini di investimento, stipulando un mutuo coperto dall'affitto che ci viene pagato dal locatario. Per cui... Certo, però ecco l'importante poi Stefano che questo non si faccia come dire con una finalità nulla, nel senso che poi ad un certo punto a questo ragazzo quando crescerà si faccia capire anche il valore dell'operazione che avete messo in campo per lui, accanto ovviamente all'operazione salvadanaio che è divertente e che ci piace senz'altro e che comunque insomma ognuno poi fa la scelta che ritiene più pertinente per il proprio ambito familiare. 800 24 00 24, numero verde per voi, per raccontarvi e per raccontarci le vostre esperienze sull'educazione del corretto utilizzo del denaro ai vostri bambini e ai vostri nipoti. Allora, Ivan Gotti, UbiBank, abbiamo raccontato del progetto Clebino che tra l'altro è già partito, no? Comunque. Sì, assolutamente. Dopo le feste di Natale, quindi all'inizio, a metà di gennaio. Fresco, quindi. Quante famiglie interessate avete già raccolto? Non tanto per farvi conti in tasca, ma quanto proprio per capire se era reale poi l'esigenza che si voleva intercettare tra le famiglie che seguite. Ma diverse migliaia già, più di quanto ci aspettavamo, devo dire, in questa fase, assolutamente molto di più. Cosa ne pensa? Un po' di problemi logistici interni. Addirittura, vabbè, insomma, sembra meglio averne di questi problemi, no, in questo periodo, con le banche che hanno fatto difficoltà fino all'altro ieri praticamente a fare raccolta e quindi adesso va bene anche così. Senta, che cosa ne pensa delle telefonate che abbiamo sentito da parte dei nostri ascoltatori con ovviamente anche modelli educativi molto molto molto differenti, c'è che addirittura con il salvadanaio ci gioca e che fa guadagnare duramente il proprio risparmio, il risparmio del piccolo del piccolo in sostanza, addirittura gli fa andare alla ricerca di monetine per casa e poi però accanto gli compra qualcosa di molto solido per il proprio futuro, quindi una casa. Sì, vedo esigenze diverse, voglio dire, cioè aspettative ed esigenze, modalità di affrontare questo problema in maniera diversa. È chiaro che l'investimento in un immobile piuttosto che in titoli o altro ha una finalità più forse di investimento familiare che è proprio strettamente di educazione a risparmio per il bambino. Ecco, ci sono poi invece finalità, vedasi il salvadanaio, molto più affine all'idea che abbiamo in mente noi, e cioè con questo progetto, chiaramente il progetto non si fermerà qui, di educare, di avvicinare i bambini al mondo del risparmio, al mondo della banca in maniera divertente ma anche, ripeto, educativa. Noi abbiamo addirittura inserito degli incentivi al risparmio, nel senso che al raggiungimento di talune soglie i bambini avranno diritto a ricevere dei premi, proprio dei regali che daremo proprio per dimostrare che a fronte di uno sforzo ci può essere un piccolo ritorno. È chiaro che sono piccoli premi, però ha un valore anche simbolico. Fino ad una certa età, naturalmente, con i bambini si deve necessariamente utilizzare anche il gioco, immagino, quindi rendere gradevole anche, no, l'approccio al mondo della finanza, perché avranno tutta la vita per avere problemi con questo settore, per cui almeno preserviamoli, almeno fino a quando è possibile, però insomma l'aspetto educativo non è detto che possa... l'aspetto educativo si può seguire anche contemporaneamente. Barbara Tamburini, Gruppo Unicredit, non le ho fatto raccontare come funziona il vostro pacchetto Genius Kids, come è andata anche da quando l'avete lanciato, perché questa forse la vostra è una delle offerte, forse insieme a quella delle Poste è una delle più consolidate, credo, in Italia. Quindi come si segue i bambini fino a 12 anni e poi quando è ora invece di avere un approccio serio al denaro, come continuate a seguirli? Certo, sì, no, è vero, in effetti ci lavoriamo da anni e non è più ormai solo una questione di singolo prodotto, singola iniziativa, ma come dicevo prima è un percorso che cerca di accompagnare il bambino fino a quando è molto piccolo all'età adulta. Allora il Genius Kids di fatto è il sostituto del tradizionale salvadanaio, perché consente di fare piccoli versamenti senza alcun vincolo e senza alcun costo, perché la nostra scelta è stata quella su tutti i prodotti dedicati ai minori di 18 anni di non avere costi di nessun tipo, per cui anche ad esempio l'imposta di bollo dovuta allo Stato la assorbiamo noi, con una remunerazione che è una remunerazione interessante di mercato, che però non deve essere, mi sento di dare in questo caso un consiglio ai genitori, non deve essere concepita come un investimento, è veramente una remunerazione sulla paghetta messa da parte, sui regali dei nonni di piccolo importo messi da parte per il compleanno o durante le festività. Quando invece si vuole pensare a programmare il futuro e quindi a mettere da parte poi negli anni una cifra che possa servire o per pagare gli studi o ad esempio per aiutare il figlio ad acquistare la casa, insomma, che possa servire a sostenere quelle spese che la famiglia ritiene importanti, allora lì probabilmente è meglio valutare anche altre opportunità, che sono poi le opportunità di investimento a cui facevate riferimento anche voi durante il servizio iniziale. Ce ne sono diverse, le proposte diciamo sono anche molto flessibili e peraltro si può accumulare una cifra importante anche partendo da risparmi che non sono un grossissimo sacrificio nell'economia della famiglia. Perché si parla di rate anche di 50 euro al mese che poi possono essere sospese nel caso la famiglia non riesca a sostenere il versamento. Infatti il tempo ha sicuramente anche un valore. Le faccio sentire cosa voleva dirci Marco da Como, che siamo riusciti a recuperare, spero adesso di sentirla meglio di prima. Marco, eccoci a lei. Sì, buongiorno, eccoci, mi sente bene adesso? Molto meglio, ci dica. Bene. Senti, io sono un felicissimo papà di uno splendido monello di 3 anni. Bellissimo. E niente, io ho valutato un po' i pacchetti offerti dalle banche assicurazioni e li reputo con dei rendimenti relativamente bassi e chiaramente con delle commissioni. Quindi ho pensato per mio figlio di fare un pack da solo in casa, no? Con un ETF sui mercati emergenti, in un'ottica di lunghissimo periodo. Che reputo senza vincoli, coi rischi di un pack e con la possibilità di poterlo svincolare quando voglio, se la famiglia ha bisogno di questi soldi, per poter dare un gruzzolo forse un pochettino superiore rispetto a un normale rivetto di risparmio, certo, o una polizza assicurativa. No, però lei ha detto una cosa interessante, Marco. Comunque ha scelto un prodotto di investimento abbastanza particolare, degli ETF abbiamo parlato tante volte, ma lei ha sicuramente anche la capacità di monitorare attentamente nel tempo l'andamento di questo prodotto. Sa, molto spesso magari un nonno va in banca e non ha una grande capacità di capire che tipo di strumento finanziario la banca gli propone, per cui si va molto più sul semplice. Quindi lei ha fatto una scelta proprio pienamente, come dire, pertinente anche alle sue capacità di interpretare la natura del prodotto che ha scelto, mi pare, perlomeno di poter dire così. Chiaramente, e consapevole dell'eventuale rischio certo, può essere, che lo ritengo comunque diluito nel tempo. Certo, questo per arrivare a dire un discorso anche legato ai piani pensionistici che adesso ma gli comincerà a dare la paghetta fra qualche tempo. 3 anni sono sicuramente pochi, ma magari a 6-7 anni ma sicuramente sicuramente gli darò la paghetta, perché è giusto che capisca il valore dei soldi. Assolutamente. Benissimo. Assolutamente. Marco, grazie, buona fortuna per il suo piccolo di 3 anni. Tamburini, volevo ritornare a lei perché non riusciamo sicuramente, poi ad un certo punto le, come dire, esigenze di risparmio si evolvono, lo dicevamo anche prima, certo. E voi credo che come banca poi copriate anche l'ambito delle polizze vita ad un certo punto. Certo. Certamente. Sì, sono di chi, chi cerca una tutela di questo tipo? Perché poi qualcuno si pensa in sostanza che poi la polizza protegga completamente, no, il risparmio. Ma allora, ci sono polizze strutturate in modo diverso, però di fatto chi è che cerca questo prodotto? Una persona che ad esempio, diversamente dal classico piano di accumulo di cui parlavo prima, vuole anche indicare ad esempio un beneficiario in caso di eventi sfavorevoli, oppure vuole che ci sia la prosecuzione del versamento delle rate anche in caso di perdita del posto di lavoro. Io sto parlando chiaramente dei prodotti che offriamo noi, ogni banca poi offre i propri. E quindi in questo caso il cliente è disponibile ad avere un prodotto che magari non ha la flessibilità totale del piano di accumulo, però ha in più delle garanzie di copertura assicurativa, quali quelle di cui stavo parlando. Allora, sentirei l'ultima testimonianza di oggi, che è quella di Eleonora da Napoli, una nonna? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Io ho un nipote che era molto molto studioso. Sì, e dopo cosa è successo? Allora, un giorno gli ho detto: Enrico, prendi un documento, andiamo in banca. Ma fare che cosa? Dice: hai bisogno della guardia del corpo? No, dico, vieni con me, poi ti spiegherò. Vado dal direttore, presento il nipote e vorrei aprire un bancomat di 5.000 euro per questo ragazzo. Ah, che bello, Enrico, che bello. Infatti, ma senta, ma quindi questi soldi lui li può utilizzare come vuole o lei si è raccomandata di farne un uso ovviamente con un certo criterio? No. Lo controlla? È un ragazzo molto saggio. Si è comprato abbigliamento, poi compra la benzina per il motorino. Ma utilizza solo il bancomat o sa anche come funziona un conto corrente, quanto costa, quali sono le commissioni ecco, quindi insomma anche per capire. Lo sa. Benissimo, una brava nonna Eleonora, brava. Noi ci risentiamo, cioè le auguro ovviamente tutta la miglior fortuna con questo nipote. Volevo chiudere con i nostri due interlocutori, quindi avete sentito ovviamente esperienze assolutamente diverse. A 18 anni questa nonna ha accompagnato suo nipote in banca per dirgli: ti apri il conto, però poi vedi di utilizzarlo anche con un certo criterio. Gotti, chiudo con lei, mi mancano 30 secondi di tempo. Io voglio pensare a mio nipote che adesso ha 2 anni, voglio pensare al suo futuro. Se vengo da voi, che cosa mi offrite? Su Clubino diamo delle condizioni. Tanto per capire insomma come si intavola anche una conversazione in banca, certo, su questi temi che sono molto delicati, a volte emotivamente molto coinvolgenti. Certo. Allora, partendo dall'apertura di questo libretto di risparmio di Clubino, noi diamo l'1% di tasso lordo, che è un buonissimo tasso perché comunque è un tasso netto superiore a quello dei BOT, tanto per essere trasparenti. Non ci sono commissioni, non ci sono costi e i bolli sono a carico della banca. Quindi è un prodotto veramente di partenza, ottimo, facile per iniziare ad approcciare una sorta di piano di risparmio per i bambini. E poi naturalmente non ci dimentichiamo di questo accantonamento, perché il discorso prosegue, invitiamo anche le famiglie a ritornare ogni tanto in banca a fare una chiacchierata col direttore. Assolutamente, i nostri direttori sono disponibili e ben felici di ascoltare come papà, mamma e nonni soprattutto. Benissimo, io vi ringrazio, ringrazio Ivan Gotti, Barbara Tamburini per essere stati con noi. Ritorneremo sul risparmio per i bambini. Queste trasmissioni sono utili, a volte anche abbastanza pittoresche e divertenti, anche perché ci piace molto ascoltare tutte le esperienze individuali delle famiglie che ci ascoltano, perché da ognuna possiamo sicuramente trarre una lezione per noi. Grazie a tutti, ci risentiamo domani, buona giornata.